A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Di Elisabetta dice che era dolce e bella, di Desirea nota che era slovacca. Se con Olga l'amore è stato ottimo, con Anna problematico e con Elisabetta le notti passate sono state due, è di Simona che scrive che resterà la mia donna a Milano, salvo poi pensarlo e scriverlo anche per Diana. Cronaca delle trasferte al nord di un magistrato calabrese tra donne, amore, vino e affari, come lui stesso ammette in una sorta di diario. Cronaca di come un ormai ex GIP di Palmi sia entrato in un vorticoso giro di scambi illeciti con il clan di 'Ndrangheta Lampada. Cronaca di come un altro magistrato sia finito in carcere dopo essere già entrato nella famigerata zona grigia, quell'area che dall'esterno appoggia i boss e li rende così potenti. Dopo Vincenzo Giglio, anche Giancarlo Giusti, altra toga calabrese, è stato arrestato in una nuova puntata delle inchieste contro la 'Ndrangheta tra Milano e Reggio Calabria. Una nuova puntata e un nuovo gradino, più in profondità, nel sistema di potere delle mafie. E se il titolo della nostra rubrica è A ciascuno il suo, stavolta tocca proprio alle toghe, a quelle arrestate, ma anche a quelle che non seppero giudicare se stesse. La buona fede riconosciuta assume un significato determinante ai fini della valutazione delle irregolarità. Con queste parole, il 6 luglio 2007, il vecchio CSM assolveva Giusti in sede disciplinare dall'aver assegnato immobili ad una società di cui era socio il suocero e per aver dato perizie sempre ad un giro di persone a lui vicine. E questo non incise neanche sulla sua carriera. Così, il 3 novembre 2010, il nuovo Palazzo dei Marescialli lo promuove a dispetto del parere negativo pure del Consiglio Giudiziario locale. Neanche un mese dopo, il suo nome era già nelle carte dell'inchiesta milanese che aveva portato in carcere allora Vincenzo Giglio, magistrato accusato di essere la talpa dei boss, e tre mesi dopo lo stesso Giusti. Il CSM faccia autocritica è l'invito del vicepresidente Michele Vietti. Parere contrario alla promozione di Giusti lo diede Vittorio Borraccetti, magistrato di lungo corso e ora numero due della commissione di Palazzo dei Marescialli che si occupa proprio di inchieste ai magistrati. Credo che questo magistrato sia stato abile nell'ingannare il Consiglio Superiore al momento della sua valutazione di professionalità, prima ancora nel dare un'immagine di sé non corrispondente alla realtà davanti alla sezione disciplinare della precedente consiliatura. Giusti aveva avuto nella precedente consiliatura un procedimento disciplinare conclusosi con una assoluzione. È stato abile nell'imbrogliare il Consiglio dando una falsa immagine di sé. Però adesso sappiamo delle cose che al momento in cui Giusti fu sottoposto a procedimento disciplinare non si sapevano ovviamente, e neppure si sapevano quando è stato sottoposto alla valutazione di professionalità, anche se c'era in quest'ultimo caso la spia del parere non positivo del Consiglio Giudiziario che dal mio punto di vista, che espressi anche in Consiglio, avrebbe dovuto pesare di più. Poco dopo la delibera di valutazione di professionalità noi abbiamo letto sul giornale notizie inquietanti su questo magistrato che erano collegate alle notizie che riguardavano l'altro magistrato arrestato. E quello c'è sullo sfondo una vicenda di 'Ndrangheta che è venuta, diciamo, fuori, venuta delineandosi anche successivamente. Però già nel momento in cui c'era stata la vicenda disciplinare per questo ex giudice, le questioni che l'avevano portato ad arrivare davanti al CSM erano anche vicende di perizie e affidamenti di incarichi appunto date a persone a lui vicine, che comunque per un giudice non è proprio il massimo. Sono d'accordo con lei, però è facile dirlo col senno di poi. La sua abilità fu quella di presentare quella situazione come dovuta ad un momento di difficoltà, al carico enorme di lavoro che l'aveva portato a fare degli errori. E lì il Consiglio ha sbagliato, secondo me, però lo possiamo dire oggi col senno di poi. C'è stato forse un atteggiamento benevolente della sezione disciplinare, come può succedere in alcuni casi, di fronte alla prospettazione da parte del magistrato di una situazione di difficoltà vissuta all'inizio della sua carriera. Ma lei perché invece si era espresso sul solco del parere dato dal Consiglio Giudiziario, cioè quindi contrario alle promozioni che sono state pur date a questo giudice? Davo molta importanza al parere del Consiglio Giudiziario, che essendo un organo del territorio, come si usa dire, conosce i giudici, e quindi quella valutazione non positiva faceva immaginare qualche cosa che magari non era scritto, ma che si intravedeva tra le righe. Io ritenevo che il Consiglio Superiore dovesse seguire l'indicazione del Consiglio Giudiziario. E certo, invece fu troppo buono? Credo che ci fossero anche motivi per valutare quegli incarichi affidati in modo discutibile come un momento negativo della carriera del magistrato, che poi erano stati superati. Personalmente non lo condividevo allora e non lo condivido neppure oggi. Mi ricordo che nel dibattito di plenum fu valorizzato proprio l'esito di quell'audizione. Cioè l'audizione dello stesso magistrato, dello stesso Giusti. Ho saputo imbrogliare bene. Sembra anche più facile che appunto chi in quel momento non ha letto e non ha apposto alcun tipo di ostacolo a degli avanzamenti di carriera, oggi appunto consideri tutto questo soprattutto come l'effetto di un'abile manovra di chi in quel momento si stava difendendo, anche perché dall'altra parte ci sono magistrati, appunto, non... Consideri anche questo, che normalmente mi pare legittimo di fronte a un magistrato presumere che questo magistrato sia una persona per bene, insomma. Di certo questo era un magistrato che ha tradito il suo giuramento di fedeltà alla Repubblica, che ha tradito i suoi doveri minimi anche di cittadino, però questo succede, è successo, e questo credo che debba insegnare un maggior rigore, una maggiore determinazione per il futuro. È facile adesso dire che è stato fatto un grave errore. Ma secondo lei c'è una forma di difesa corporativa? Questo è un po' inevitabile in tutte le categorie professionali, però devo dire, credo che ci sia anche un atteggiamento rigoroso in materia di valutazione della professionalità, tant'è che qualcuno si lamenta anche di un eccesso di rigore in sede disciplinare. Io credo che per alcuni possa avere peso anche la spinta a tutelare comunque il collega in nome della colleganza, ma questo non è un discorso generalizzabile all'interno del Consiglio Superiore, e proprio alcuni dei protagonisti di questa vicenda, alcuni dei componenti della Commissione, sono caratterizzati proprio dal fatto di un grande rigore, non cedere, come dire, a spirito corporativo. Certo, questa è un'insidia, è un rischio sempre presente, però non direi che in questo caso sia stato determinante. In questo caso è stato abile il magistrato a dare un'immagine di sé che era profondamente diversa dalla realtà. Ecco, dottor Borraccetti, il vicepresidente Michele Vietti, sull'onda di questa precisa vicenda di Giusti, dice che il CSM per intero dovrebbe fare autocritica e quindi imparare ad utilizzare le valutazioni di professionalità con maggior rigore e senza fare sconti a nessuno, ha detto. Lei è d'accordo? Mi pare, per la verità, che sconti non ne vengano fatti, bisogna distinguere sempre caso per caso. Se quello che dice il vicepresidente implica, esige meglio un rigore ancora più accentuato e soprattutto una capacità di conoscere meglio il magistrato nel concreto svolgimento del suo lavoro, allora io sono d'accordo, perché questo vuol dire anche valorizzare di più le valutazioni dei consigli giudiziari. Se qui avessimo seguito il consiglio giudiziario non avremmo sbagliato, però è anche vero, le dirò, che spesso i consigli giudiziari possono risentire anche loro, proprio in forza della prossimità, di un'influenza del territorio, dello spirito di colleganza. Per cui questo è un po' una vicenda che deve far riflettere un po' tutti i magistrati che sono impegnati negli organi di governo autonomo, quindi solo consiglio, ma anche consigli giudiziari, ma anche capi degli uffici. Cioè bisogna, ed è questa secondo me forse una delle esigenze maggiori che abbiamo, bisogna essere capaci di dare un quadro di conoscenza del singolo magistrato aderente alla realtà, fondato sulle cose che il magistrato fa, su quelle che non fa, su come le fa, sul comportamento complessivo, uscendo da una prassi che abbiamo seguito per troppi anni, per cui normalmente le valutazioni che venivano date dai capi degli uffici e poi dai consigli giudiziari erano valutazioni tutto sommato sempre benevole. Ecco, io continuo a pensare che la stragrande maggioranza dei magistrati sia assolutamente per bene. Certo. Ecco, e però la nostra credibilità si misura proprio sulla capacità che abbiamo di scovare ed eliminare quelli che per bene non sono. A ciascuno il suo. 593 procedimenti a magistrati dal 2008 al 2011, 165 sono state le condanne, 150 le assoluzioni. Il termometro della capacità delle toghe di giudicare se stesse sta qui, in questi dati della sezione disciplinare del CSM che Radio 24 ha ora tra le mani. Ebbene, nel 2010 le sentenze di condanna hanno superato sia pur di poco quelle di assoluzione, 36 a 34 su un totale di 149 procedimenti definiti. Un trend questo che si conferma anche negli ultimi anni, 47 a 35 nel 2009, 50 a 43 nel 2010. Diverso era stato invece il 2008, con 33 decisioni negative per i magistrati sottoposti a procedimento disciplinare e 41 esiti positivi invece. Ma se si va ancora più indietro nel tempo, a prima cioè della riforma del 2006, l'orientamento prevalente del CSM nei confronti dei colleghi è stato decisamente più buono. Al 2006, su 505 procedimenti disciplinari sopravvenuti, leggiamo, 351 erano stati di assoluzione, 143 di condanna, di cui 53 ammonimenti, 54 censure, 5 censure con trasferimento e 6 rimozioni. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo con Vittorio Borraccetti, magistrato di lunga esperienza, ora numero 2 della commissione del CSM, che si occupa proprio di inchieste ai magistrati. Quindi secondo lei c'è stato fino adesso una, diciamo così, una abitudine, a una tendenza a delle valutazioni più benevoli che sì, obiettive nei confronti dei magistrati? Negli anni passati sì, naturalmente prescindo in questo da riferimento a casi come quello di Giusti, ovviamente. Di certo, è una valutazione d'insieme. In generale. Direi di sì, nel senso che per anni, per decenni, siamo stati abituati a pareri sulla professionalità dei magistrati che erano appunto caratterizzate dalla benevolenza, insomma, di nessuno si dicevano gli aspetti critici. La lettura di queste valutazioni di professionalità fa capire come in realtà ci fosse un appiattimento che impediva proprio di capire il profilo professionale specifico e concreto del magistrato. Quindi una chiusura a riccio della categoria in difesa del proprio collega? Una chiusura a riccio non è forse neanche del tutto vero, perché poi nei consigli giudiziari da anni eletti con il sistema proporzionale hanno trovato spazio anche componenti della magistratura che erano un po' più attente al rigore. Però diciamo che la logica prevalente, non generale, ma la logica prevalente è sempre stata un po' quella. Ecco, non vorrei dipingere una situazione in cui tutto va male, tutto è inattendibile. Diciamo che abbiamo un passato di conformismo, diciamo così, nelle valutazioni di professionalità. Grazie alla riforma del 2006-2007 però le cose stanno cambiando, vede? Perché con la riforma sono state introdotte delle griglie di valutazione, dei parametri, dei criteri che esigono adesso di dire esattamente come stanno le cose sul conto di ogni magistrato. E quindi a questo punto, alla luce una fase di cambiamento positivo. Quindi un cambiamento che però a questo punto, alla luce anche di questi ultimi episodi, diciamo, potrebbe necessitare di ulteriori correzioni. Lei ha citato prima un'ipotesi che potrebbe essere quella di un maggiore ascolto di chi è sul territorio, pur tenendo presente, diciamo, il rovescio della medaglia che questo tipo di indicazione potrebbe avere. E ad esempio, secondo lei, dovrebbero cambiare proprio gli iter che portano alla valutazione di alcuni casi disciplinari? Sul primo punto, che riguarda la valutazione di professionalità, il tema è l'ampliamento delle fonti di conoscenza, in sostanza. Per esempio, da questo punto di vista sarebbe importante dare più spazio a informazioni puntuali, precise, provenienti per esempio dall'avvocatura, cosa che finora si fa in misura molto contenuta, e lascio a parte i casi dei delinquenti perché lì il discorso è proprio estremo e per nostra fortuna riservato pochissimi casi, però se si parla in generale il problema è quello di ampliare le fonti di conoscenza sul modo di lavorare e di comportarsi il magistrato, e una delle fonti per esempio potrebbe essere, più di quanto non sia oggi, l'avvocatura. Poi si potrebbe anche trovare il modo di avere informazioni anche ulteriori rispetto a quelle che forniscono i capi degli uffici, provenienti per esempio anche dall'interno degli uffici giudiziari, perché no, dal personale amministrativo. Insomma, si possono pensare cose che aumentino la capacità di conoscenza da parte del Consiglio. Istruire dei piccoli processi. Diciamo, completare meglio l'acquisizione delle informazioni, perché parlo sempre della valutazione di professionalità. Certo, certo. Altro livello è quello del disciplinare, dove l'organo che ha il compito di promuovere l'azione disciplinare e di fare quindi l'istruttoria è il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Allora, è intervenuta nel 2007 una riforma importante, direi che qui c'è bisogno di una Procura Generale più capace di individuare i comportamenti disciplinarmente rilevanti, quindi più capace di istruire e di portare davanti al Consiglio con l'azione disciplinare i magistrati che si rendono colpevoli di violazione dei loro doveri. E aggiungo un'altra cosa, il Ministero della Giustizia ha un organo importante che è l'Ispettorato Generale. Sì. Ecco, l'Ispettorato Generale fa delle ispezioni periodiche negli uffici giudiziari, ma è un organo, secondo me, oggi sottopotenziato. Se fosse potenziato, forse potrebbe, con maggiore periodicità e con maggiore capacità di conoscenza, intervenire magari su segnalazioni che vengono dalle più svariate fonti, potrebbe intervenire per accertare, per esempio, situazioni di opacità ambientale, situazioni come quelle che in qualche misura nella vicenda che riguarda Giusti si erano verificate. Quindi non è soltanto un problema del Consiglio, non è solo un problema dei consigli giudiziari che stanno sul territorio, né dei capi degli uffici dove i magistrati lavorano, è anche un problema di potenziamento dell'organo ispettivo del Ministero della Giustizia e della funzione disciplinare del Procuratore Generale. E quindi è anche lì che secondo lei dovrebbe lì bisogna, diciamo, migliorare, intervenire. Cioè, noi dobbiamo creare un sistema che consenta di conoscere bene l'attività dei magistrati, degli uffici giudiziari e di intervenire tempestivamente là dove ci sono situazioni di opacità. Questo sì, questo al di là della vicenda specifica, mi pare che queste siano un po' le questioni. Se quelle dei magistrati finiti in inchieste contro la 'ndrangheta sono delle vicende fortunatamente un po' limite, è vero anche che colpiscono e appannano la fiducia nella giustizia intera, con un danno terribile soprattutto laddove da qui si deve partire nella lotta alle mafie, dalla fiducia nella magistratura. Ed è anche per questo che Vittorio Borracetti dal CSM dice a se stesso e ai suoi colleghi: ora bisogna porsi il problema di meritarsi l'indipendenza. Forse nel momento in cui si è, nel corso di questi anni, difesa in modo intransigente l'indipendenza, ecco, porsi anche il problema di come meritarsi questa indipendenza e quindi di come fare esercizio della responsabilità, sì, può essere opportuno. A ciascuno il suo finisce qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate della rubrica sul sito radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche su iTunes e poi sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.